Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia in diretta oggi, come vi abbiamo anticipato ieri, dal Vinitaly, che oggi ha aperto i battenti, la più importante manifestazione del vino in Italia e una delle due più importanti a livello anche europeo, quindi anche a livello mondiale, assieme a Bordeaux. Oggi appunto ha preso via la 44esima edizione del Vinitaly fino al 12 aprile, alla presenza del Presidente della Regione Veneto e anche ancora Ministro delle Politiche Agricole Luca Zaia. Domani la visita del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, numeri da record anche quest'anno, 4.200 espositori, di cui alcuni provenienti anche dall'Oceania, dall'America, oltre che da Africa e Europa, 12 padiglioni, 92.000 metri quadrati di esposizione, un settore del vino di cui parleremo subito, anche perché rappresenta il nostro primo settore quanto nell'export agroalimentare del Paese. Praticamente il 20% dell'export agroalimentare del Paese è rappresentato dal vino e i numeri, devo dire, ma vi arriveremo tra un istante, sono brutti come tutti i numeri dei settori produttivi, ma non così brutti come quelli di altri settori. Meno 5,5% nel 2009 il valore dell'export a 3 miliardi e mezzo, più 10% il volume perché sono calati i prezzi, quindi si è esportato di più ma a prezzi più bassi. Oltre che di vino parleremo della Banca Centrale Europea, delle tensioni sulla Grecia, vediamo subito anche come vanno i mercati, restano molto deboli, non sui minimi, meno 1,2% Milano, meno 0,70% Francoforte, meno 1% Parigi, Londra meno 0,90%, l'America perde lo 0,20%, euro su dollaro a 1,33,5, euro su franco svizzero a 1,43,2. Di nuovo pesa la Grecia, nonostante le rassicurazioni arrivate dalla Banca Centrale Europea che oggi ha lasciato i tassi invariati. Di questo parleremo nella seconda ora del programma. Tra i titoli segnalo in positivo Fondiaria Assai più 2,1%, Buzzi Unicem più 0,90%, Ansaldo STS più 0,80%. In negativo pesante il calo su Mediaset, meno 2,90%, ma anche su Pirelli, meno 3,20%, e poi su alcuni bancari, Unicredit meno 2,3%, Saipem meno 2, Tenaris meno 2, Autogrill meno 1,90, ST Microelectronics meno 1,80, Intesa meno 1,80%, Telecom meno 1,60, come Prismian un punto e mezzo il calo di Impregilo, di Generali e di Mediobanca, l'1,3 quello della Popolare di Milano. Andiamo subito con le notizie in breve. Partiamo dal petrolio, che è in calo, ma un calo abbastanza insignificante, lo 0,7%, $85,3 al barile. Di nuovo ritocchi sulla benzina, non si placa la polemica. Ieri abbiamo fatto il calcolo, insomma, quando il petrolio era a $150 al barile, la benzina costava €1,52, adesso che è $85 al barile costa €1,42, qualcosa non torna, pur restando il fatto che la benzina, il petrolio pesa solo per il 30% sulla benzina, ma insomma, anche facendo questo calcolo, con il petrolio a $150 al barile avrebbe dovuto essere a quel tempo a quasi 2 euro al litro, non a 1,52. Comunque i petrolieri si difendono e va bene. Agip ha rotto gli indugi, 1,4 centesimi il prezzo della benzina in più e 1,7 quello del diesel, che così vanno a 1,422 sul verde e a 1,252 sul diesel, rialzi analoghi anche per APIP. Il governo sta lavorando per dare una risposta immediata che riguarderà l'IVA sulla questione dei prezzi della benzina, ma anche per una riforma strutturale che consenta all'Italia di ridurre quei 4 centesimi di differenza ingiustificati dovuti appunto al nostro cattivo funzionamento della distribuzione tra il prezzo della benzina italiana e quella del resto degli altri paesi. L'ho detto oggi il sottosegretario allo sviluppo economico Stefano Saglia, che ha anche avanzato la proposta di prezzi settimanali che sarebbero più facili da comprendere per il consumatore. Più avanti parleremo anche di British Airways e Iberia, che hanno firmato una fusione storica. praticamente 408 aerei, 8 miliardi di dollari il valore combinato dei due gruppi, 200 gli aeroporti coperti, 1700 voli al giorno e 61 milioni di passeggeri l'anno, 15 miliardi il giro d'affari, anche qui combinato. Numero per i vostri sms non l'ho dato, avete ragione, 349-238-6666. Volete sapere dalla Banca Centrale Europea? Diamo alcuni dati. Numero uno, Jean-Claude Trichet, che sarà poi ospite nelle due giorni di Parma, domani e sabato, organizzata dal Centro Studi di Confindustria. Noi domani trasmetteremo in diretta da Parma. Dicevo, Jean-Claude Trichet, nella scia dei tassi invariati, ha detto: la ripresa è in corso, i tassi sono adeguati. La crescita dell'Unione Europea resterà moderata nel 2010 e per quello che riguarda la Grecia, il tema del default, cioè del fallimento possibile dello Stato greco, non si pone nemmeno. Tutte le voci di Jean-Claude Trichet della conferenza stampa e il commento li ascolteremo dopo le 18. Sarà pesante la situazione in Grecia, la Grecia perde il 4% oggi in borsa e il credit default swaps, cioè le assicurazioni sul rischio dell'investimento greco, toccano praticamente un nuovo record. 349-238-6666, allora per i vostri sms partiamo subito col vino, la nostra scheda, come è andato il settore vitivinicolo nel 2009 anche alla luce del rapporto Mediobanca. È un vino italiano che guarda al 2010 come l'anno della riscossa, quello che si presenta al Vinitaly. Una risalita da un 2009 che, letto attraverso i dati del rapporto Mediobanca sul settore, si traduce nella flessione del 2,2% dei consumi interni, a 5,8 miliardi di euro. Nel calo del 4,3% delle esportazioni, a 2,6 miliardi di euro, e nel taglio del 3,2% dei fatturati delle imprese, valutati sui 9 miliardi di euro. Tuttavia, il 2009 è stato comunque segnato anche dalla conquista di nuovi mercati, come Russia, che ha più che raddoppiato gli acquisti, e Svezia, a più 14,2%. Sempre a livello geografico, scenari interessanti sembrano aprirsi anche verso il Giappone, mentre i mercati di Cina e India sono considerati ancora marginali. Infine, il mercato strategico per eccellenza, gli Stati Uniti. Qui l'Italia ha ormai dovuto abbandonare la leadership di esportatore, mantenuta incontrastata per più di una decade. Il deflagrare della bolla immobiliare e della conseguente crisi economica ha spinto infatti gli americani a rimodulare completamente gli acquisti, anche del vino, privilegiando prodotti sfusi di prezzo inferiore, quindi attingendo ai serbatoi dell'emisfero australe, come Australia e Sud America. Allora, questi i dati principalmente presi dal rapporto Mediobanca, come raccontava la nostra scheda. Iniziamo a parlare con i produttori. Abbiamo scelto, come ogni anno, di partire dai principali produttori per giro d'affari. E poi sentiremo anche nel corso delle prossime puntate, soprattutto lunedì, quando vi sarà la chiusura del Vinitaly, anche produttori minori. Come ricordavo in apertura, oggi però dedicheremo anche un piccolo spazio all'Abruzzo, la ricorrenza ahimè tragica del terremoto, e chi produce è tornato a produrre vino anche in Abruzzo. Lasciatemi allora ringraziare per averci raggiunto qui negli studi di Radio 24 al Vinitaly, ospiti della Regione Veneto. Nell'ordine, Lamberto Vallarino Gancia, che è presidente di Federvini, che è l'associazione di aderente a Confindustria, che rappresenta il mondo vitivinicolo. Buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Grazie anche Ladies First a Albiera Antinori del gruppo Antinori. Grazie per averci raggiunto. Anche qui noi, come sempre, prendiamo i primi produttori. Grazie per essere. E grazie anche a una conoscenza, almeno chi segue Radio 24 quando parliamo di vino, mi riferisco al gruppo Italiano Vini, che è primo per fatturato e volume, lo storico presidente, attualmente consigliere, Emilio Pedron. Buonasera anche a lei. Buonasera a tutti. Allora, poi parleremo anche con la Cavit, la classifica di solito è sempre GIV, Cavit, Antinori, no Pedron? Sì. Siamo d'accordo su questo, non creiamo tensione, però vorrei partire da chi rappresenta tutti. La scheda, insomma, ricordava difficoltà del settore, export in calo di oltre il 5%, in valore, anche se il volume nel 2009 non è andato male perché è aumentato, qualche tensione sui prezzi. Siete veramente convinti che il 2010 possa essere l'anno della riscossa? Perché insomma, ogni anno si dice a Vinitaly sarà l'anno della riscossa. E vabbè, in questo caso si può anche dire, come chiedere all'oste se il vino è buono. Però, insomma, siete convinti o è marketing? Ma secondo me bisogna vedere anche un po' i dati un po' più nello specifico, perché se si parla di volumi in generale, è chiaro che c'è una tendenza comunque al calo dei consumi ormai costante negli ultimi anni in parecchi mercati partendo dall'Italia. C'è però invece una controtendenza sul concetto della qualità, cioè oggi sempre di più il consumatore guarda all'eccellenza, guarda alla qualità, cerca di capire che cosa c'è dietro ai nostri prodotti, e ci sono alcuni valori distintivi come quello del territorio che fanno la differenza. È chiaro che il 2009 è stato un anno difficile, che è partito male, è finito però meglio, quindi ha recuperato, e per la prima volta forse nel mondo c'è stato un calo di consumi un po' generalizzato in parecchi paesi, partendo da quello più importante che gli Stati Uniti, dove il vino italiano ha sicuramente uno dei più grossi mercati. Però cosa ci ha insegnato? Ci ha insegnato che il consumatore è attento e curioso a ricercare un vino che ha qualcosa di distintivo, che ha una qualità dietro. Ecco, le difficoltà della domanda interna, dei consumi di paesi come la Germania, la Gran Bretagna, la Spagna sono arcinote, anche sugli Stati Uniti ricordava la nostra scheda come le difficoltà si sono fatte sentire. Però, Presidente Gancia, c'è un altro tema che resta sullo sfondo. Oggi il rapporto che citavamo sull'impoverimento delle famiglie italiane non è che riguardi il vino in senso stretto, ma riguarda anche il vino, la dice lunga sul potere d'acquisto e sull'indebolimento del potere d'acquisto in senso complessivo. Ecco, sui prezzi secondo lei si è fatto abbastanza o, come dicono alcuni più fortunati, non è un tema perché l'importante lì è la qualità? No, è chiaro che il tema dei prezzi è importante. Io dico sempre, non c'è un consumatore solo, non c'è un solo tipo di vino, quindi ci sono varie fasce di prezzo, e oggi si evidenziano delle criticità e delle opportunità a seconda delle fasce, per cui riscontriamo che alcuni vini da prezzo hanno comunque dei problemi, e c'è il fenomeno dello sfuso, che è una realtà, però dall'altra parte è anche vero che è frutto di cantine che magari hanno avuto difficoltà a vendere il vino. In primis sono stati citati proprio i vini del Nuovo Mondo, dell'Australia, della Nuova Zelanda, del Sudafrica, che avevano difficoltà a venderli in bottiglia. Dall'altra parte c'è una fascia di vini di qualità che dai 5 euro in su, abbiamo riscontri, proprio in questi giorni se ne parlerà qui al Vinitaly, hanno un incremento del giro d'affari dovuto al fatto proprio che il consumatore sta bevendo meno, ma quando beve decide di bere un prodotto più di qualità, che lo soddisfi di più. Ecco, su questo però c'è un altro tema che vorrei trattare con lei, poi andiamo con i singoli produttori, ed è il rapporto con la GDO, che non vale solo per il settore del vino, ma vale in generale per il settore agroalimentare italiano. C'è stato un accordo, una proposta di accordo addirittura normativo a livello parlamentare fatta dalla Confagricoltura per avere dei centri d'acquisto a valle e a monte, e in sostanza il mondo dell'agricoltura, a cui a mio avviso appartiene a pieno titolo anche il mondo del vino, ha ben presente la difficoltà nell'essere tanti e piccoli, e quindi parcellizzati, dispersi, insomma, non uniti, spesso in concorrenza spietata anche all'interno dei consorzi e dei consorzi di tutela, contro da un lato mondo dell'approvvigionamento, che siano i concimi, quindi il mondo della chimica, piuttosto che della meccanica, e quindi delle macchine, dei trattori che servono per coltivare le superfici, che è fatto di pochi soggetti e grandi, e anche un mondo a valle, ossia di chi il vino poi ve lo acquista e lo deve mettere sulle linee distributive, fatto anche qui di pochi soggetti e grandi. Si riesce prima o poi a andare oltre questo tema dei bravissimi italiani, bravi ma piccoli, piccoli, tanto piccoli, che poi nella grande distribuzione, tranne alcuni marchi, tendiamo a scomparire, e soprattutto nei mercati esteri soffriamo parecchio perché lì invece i volumi contano. È un discorso molto complesso, perché comunque la realtà del piccolo produttore in Italia è difficile smontarla, se non naturalmente per le soluzioni naturali. C'è un'offerta molto vasta e c'è una grande distribuzione che è comunque concentrata e che comunque inizia ad essere molto più attenta all'acquisto del vino, semplicemente perché il consumatore va ad acquistare più nella grande distribuzione, perché consuma meno nella ristorazione, meno in quello che noi definiamo tecnicamente l'oreca, quindi gli hotel, ristoranti e i caffè, certo, no? E i bar. Quindi la stessa grande distribuzione si sta attrezzando per aumentare la gamma d'offerta in varie fasce, quindi non solo più vini solo sui 3 euro, ma anche sopra i 3 euro, sulla fascia anche dei 5 euro. E qui entra in gioco il discorso della capacità produttiva e di servizio da parte dei produttori, per cui quando si entra in certi scaffali si deve avere una quantità minima per poter riuscire a servire tutto. Sì, ma come ne usciamo? Nel senso che a me sembra che, insomma, la proposta della Confagricoltura punti ad avere delle reti di acquisto utilizzando appunto anche una normativa, ma la mia sensazione è che comunque poi quando si va nel concreto, sì, tutti lamentano il piccolo che non è bello, le dimensioni sono importanti, poi nel concreto ognuno vuole giocare la sua partita e secondo me un po' da soli ci facciamo male. Ma è bello il piccolo come è bello il grosso, c'è comunque una realtà di piccoli e di grossi, c'è una realtà di piramide della qualità di varie offerte, dove per carità queste forme di acquisto possono funzionare per risolvere un problema di eccedenze su una certa fascia, ma che non risolve il problema di produttori che invece stanno sul mercato con un buon rapporto qualità-prezzo, con prodotti di vertice che comunque il consumatore continua a acquistare, e con delle grosse opportunità anche di mercati esteri, dove sempre di più, è stato parlato prima della Cina, sempre di più i cinesi per esempio guardano alla qualità dei prodotti, vogliono sapere che cosa c'è dietro. Oggi è un mercato piccolo ma un potenziale di crescita, diverso è l'India, dove invece ci sono blocchi d'entrata per tassazioni talmente alte per cui bisogna lavorare a livello di WTO per convincerli che il mercato, quando si apre, anche i loro prodotti locali hanno successo. Quindi il segreto sicuramente è fare squadra, fare sistema, sfruttare anche i fondi di investimento che la nuova OCM dà, la nuova OCM, il regolamento del vino, mm-hmm, dà per mettere insieme le imprese e fare promozione, far scoprire che cosa c'è dietro i nostri territori, perché abbiamo tanti territori, come abbiamo tanti piccoli produttori, come abbiamo tanti grossi produttori che da soli non ce la fanno a proporre un sistema paese. La squadra e l'impostazione è stata fatta, è stato fatto un tavolo di lavoro dal Ministero per gestire questi fondi, mm-hmm, e allocarli su progetti che sono orientati su questa mm-hmm strada, sui mercati esteri, e i risultati si inizieranno a vedere da quest'anno in poi, perché i primi fondi si iniziano a spendere quest'anno. Sì, del resto dell'idea che alla fine si faccia un po' poco, ma non è responsabilità sua, Presidente Gancia, ma si faccia un po' poco sul fronte della massa critica. E di questo, di questo tema, ma non solo, vorrei parlare con Emilio Pedrona, che è stato per anni presidente del gruppo Italiano Vini, adesso ha passato il testimone, resta comunque come consulente consigliere, e con il gruppo Antinori. Anche qui diamo le cifre prima di tutto, perché il gruppo Italiano Vini fattura sui 300 milioni di euro, non stiamo considerando l'operazione di aggregazione con Cantini Unite CIV, 300 milioni di euro di fatturato e 75 milioni di bottiglie. Voi invece come gruppo Antinori fatturate più o meno 119 milioni di euro con 18 milioni di bottiglie. Pedron, sul tema dell'aggregazione, riuscire a fare massa in un periodo di crisi, in un periodo in cui servono le reti lunghe, c'è un discorso che vale per tutto il mondo dell'impresa e vale anche per il mondo della produzione vitivinicola, fermo restando, lo dico chiaramente anche a Gancia, che quando uno ha una produzione di nicchia, di livello, di fascia alta, ma lì lavora da sé, e avremo nei prossimi giorni produttori che viaggiano sicuramente non per il mercato della GDO, ma io mi riferivo anche alla necessità poi di fare volumi, visto che appunto noi abbiamo le cifre che ricordavamo, e quindi 44 milioni e mezzo di ettolitri, e con il 21% della produzione mondiale di vino e il 34% di quella europea, 8 miliardi di giro d'affari. Allora, perdono, è possibile che in questi anni non si sia riusciti ad avere un passo in avanti? È colpa anche vostra, dico, come i grandi, perché forse i grandi, avendo già massa, ci tiene di meno aggregarsi, a usare i consorzi come veicolo di marketing sui mercati internazionali e quant'altro? No, no, sicuramente le colpe non ci sono, ci sono i piccoli che sono molto orgogliosi delle loro aziende, della loro proprietà, della loro anche qualità originale, ci sono i grandi che fanno difficoltà a consolidare perché ci vogliono capitali enormi, no? Il vino richiede un investimenti notevoli, per cui acquistare altre aziende servirebbe la finanza, ma la finanza e il vino purtroppo non vanno d'accordo, lo sappiamo, per una questione reddituale. Mi premeva accennare un altro argomento di cui ne sostengo da diverso tempo. Secondo me la crisi economica e finanziaria ha meno fatto male al vino di quanto non se ne abbia fatto da solo il settore e la struttura del settore. Proprio questo contrasto fa un'offerta frazionata e disordinata che si confronta con una distribuzione che è sempre più concentrata e sempre più organizzata, crea dei danni enormi. E spesso non è questione di dimensione, è questione anche di cultura di chi si approccia, di chi si parla. Quindi va dalla grande distribuzione al produttore che non sa quali siano i bisogni, il comportamento, il servizio che serve per la grande distribuzione. E va solo offrendo un prezzo. Questo genera delle grandissime difficoltà e spesso oggi, soprattutto nel 2009, abbiamo pagato un prezzo altissimo apparentemente alla crisi, ma lo paghiamo alla dinamica del nostro settore. A fronte dei numeri che abbiamo sentito in Mediobanca, non dobbiamo dimenticarci che proprio leggevo che il prezzo medio a litro del vino esportato in Italia è calato del 18% nel 2009, per non dire che il vino all'origine ha calato, dati ISMEA, è calato di circa il 20%. Allora questi sono dati che ci devono far riflettere, vuol dire un impoverimento del comparto che è grandissimo, che è una cosa assolutamente, non solo impoverimento in termini economici, ma anche di immagine, di prestigio, di certe denominazioni, di certe cose. È qui che dovremmo essere capaci di reagire, o trovando sinergia e coagulo sotto tutte le forme possibili. Il GIFNE è un esempio, no? Attraverso l'accorpamento probabile abbastanza veloce con le cantine riunite CIF oppure altri accorpamenti, ma anche attraverso consorzi privati di commercializzazione che secondo me dovranno pur nascere in questi. Dunque, intanto lo dico a chi scrive al 349-238-6666, stiamo parlando anche della necessità di fare massa critica non solo in Italia, non solo nella grande distribuzione italiana, ma anche soprattutto quando vai all'estero, perché l'Italia è anche un sistema più frammentato, ma quando tu vai in Francia, negli Stati Uniti, in Canada, lì hai veramente i colossi della grande distribuzione, Gran Bretagna. Si può fare un ragionamento analogo e lì poi rischiate voi di soffrire sul prezzo e comunque di non avere volumi sufficienti per garantire poi un'offerta adeguata. Adesso c'è il meteo, la pubblicità, poi chiudiamo con voi. Abbiamo come promesso anche una piccola spazio dedicato ai produttori di vino abruzzesi a un anno dal terremoto, le zone colpite dal terremoto, per capire quali siano state le difficoltà. Certo che il danno più forte si è avuto per la popolazione civile, per le case e quant'altro, però c'è anche questo aspetto che ci piaceva ricordare. 349-238-6666, poi come sempre la borsa, vi dico già la chiusura, meno 1,4%, quindi vicino ai minimi la chiusura di Piazza Affari, meno 1,2% Parigi, meno 0,80% Francoforte, meno 0,80% anche Londra, l'America perde lo 0,20, 349-238-6666 per i vostri sms. minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni dal Vinitaly per concludere questo approfondimento sul vino e poi passare agli altri temi di questa giornata economico-finanziaria. Devo dare però due notizie appena battute dalle agenzie. La prima, la Banca d'Italia ha bloccato le nuove emissioni di carte American Express perché c'è un'accusa di antiriciclaggio e usura. Questo è quello su cui sta investigando la Banca d'Italia. C'è solo un flash d'agenzia, non sappiamo dirvi molto di più. Comunque, blocco alle nuove emissioni di carte di credito American Express. Ancora su alcuni siti di alcuni quotidiani è apparsa la notizia, però a mio avviso arriverà anche una smentita dal Tesoro. Comunque vedremo, che il governo starebbe approntando una misura correttiva, quindi quella che una volta si chiamava la manovrina bis, da 4-5 miliardi di euro evidentemente per dare un'ulteriore correzione ai conti pubblici. Vedremo, per ora si tratta di indiscrezioni stampa prive di assoluta verifica, conferma o smentita da parte del governo stesso. Per quello che riguarda l'American Express, in realtà l'accusa, perché adesso vedo nuove agenzie, di carenze informative, stanno precisando adesso le agenzie, non c'è la normativa antiriciclaggio, sono carenze informative e usura, però non capisco bene e confesso la mia ignoranza che cosa voglia dire. Andiamo avanti col settore del vino, perché volevo sentire anche il gruppo Antinori su questo. Vedo che molti di voi ci scrivono dicendo in effetti i produttori italiani hanno difficoltà a imporsi all'estero per le piccole dimensioni, per la carenza nel rapporto con la grande distribuzione, che ripeto all'estero pesa tantissimo. E a chi ci chiede se venite all'aperto pubblico, sì, certo che è aperto pubblico durante il fine settimana. E in tema di consorzi, tra l'altro, dottor Pedron, anni fa c'era anche la proposta di utilizzare non solo come vestale del disciplinare per produrre quel tipo di vino, quindi tutte le regole, ma anche per usarli come strumento di marketing, per dividere i costi nelle promozioni, nelle fiere e quant'altro. C'era molta resistenza, c'è ancora? Credo che ci sia ancora. Oggi il consorzio dalla vestale del disciplinare diventerà anche la vestale della promozione, speriamo, con i fondi OCM. Però per fare questo tipo di discorso economico ci vogliono altri tipi di raggruppamento di tipo economico che hanno un valore, un comportamento diverso, cioè sono aziende che decidono di essere rappresentate, vendute insieme in un gruppo, soprattutto sui vari mercati. Però ritorno su un argomento che secondo me è sicuramente questione di dimensione, di volumi, spesso è questione di cultura. Gli uomini del vino spesso hanno il prezzo come unica leva di marketing, come un elemento con cui cercare di battere la concorrenza, cercare di non perdere un cliente. Oggi il vino è comprato da intenditori che ne sanno sempre di più, lo conoscono sempre di più e non ritengono il prezzo il primo fattore di scelta. Quindi ci sono altri elementi come il servizio, come la sicurezza, la certezza, come servizi anche informazioni. Cioè, ci sono moltissime altre cose, altre leve che possono essere usati senza usare il prezzo, e questo manca nel DNA di molti produttori vinicoli. Sì, fermo restando che per il marketing, per la pubblicità, poi promuovere visto che siamo in Veneto, la Valpolicella o Val d'Obbiadene, con massimo rispetto per chi fa vino lì, ma vale la stessa cosa per la Valtellina, il Chianti forse meno, insomma significa non capire che all'estero uno può conoscere forse la Toscana, forse il nord-est Italia, forse capire cos'è il sud. È inutile continuare con questi localismi, ma mi rendo conto che è un cavallo di battaglia nostro che trova poca eco in giro nel paese. Dottoressa Antinori, anche io ho domande abbastanza analoghe per lei, perché voi non rappresentate un consorzio, un'aggregazione, rappresentate un marchio, ed è chiaro che quando si è così conosciuto, penso ai grandi nomi appunto del vino italiano di cui voi fate parte da decenni, la tentazione è anche di dire vabbè, passi il termine, ma chi se ne frega, noi andiamo avanti, abbiamo nomi di vini e un nome dell'azienda vitivinicola talmente forte che facciamo la nostra promozione. È così, cioè la spaccatura è ancora tra chi riesce a imporsi sui mercati, perché ormai ha raggiunto, come nel caso vostro, i 18 milioni di bottiglie fatturati che le pongono al terzo posto, e non si riuscirà mai a trovare un accordo con gli altri, con le dimensioni più medie e piccole? Ma no, direi che anzitutto per essere arrivati a questi numeri, a questa, diciamo, alla conoscenza del nome dei nostri vini, sicuramente ci siamo arrivati negli ultimi 25 anni anche grazie a un sistema che comunque, insomma, quando è nato il Tignanello, che magari all'inizio era un vino in una zona, un vino diverso in una zona che era rimasta un pochettino più indietro, poi dopo si è mosso tutto. È difficile essere gli unici per essere riconosciuti come grande vino in una zona, ci vogliono anche tutti gli altri. È molto più facile se c'è altri grandi produttori di buoni vini nella zona, quindi abbiamo molto chiara l'importanza dei competitors, amici che servono per poter promuovere una zona, un territorio. Sicuramente l'imprenditore italiano in genere tende ad andare anche per la sua strada. È difficile far andare tutti d'accordo in un consorzio che sia del vino, che sia dell'agricoltura, che sia di mille altre cose. Sono cose che però vanno fatte, ci sono delle occasioni che sono importanti e possono solo essere risolte attraverso i consorzi o attraverso associazioni di produttori, come ultimamente ne è nata una come i Grandi Marchi, che raggruppa produttori, usufruisce di fondi e va avanti con un obiettivo ben chiaro. Ci sono poi le organizzazioni di categoria, insomma ci sono su alcune cose chiaramente ogni tanto uno si trova più d'accordo, su altre cose tende a sviluppare il proprio di marchio, questo è normale. E quindi insomma su questo mi sembra di capire che anche lei individua una certa difficoltà. Comunque grazie per averci curato l'andamento del settore. Le difficoltà dei vari gruppi le abbiamo anche ricordate, nel caso vostro di Antinori siete passati da 139 milioni di euro circa di fatturato a 119 milioni, sempre più o meno con 18 milioni di bottiglie prodotte. Grazie quindi a Biera Antinori, della Marchese Antinori, grazie a Emilio Pedron del gruppo Tenovini e grazie anche al presidente di Federvini, Lamberto Vallarino Ganci. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, chiedo scusa perché ci segnalano che c'è stato un piccolo problema nel collegamento, nella linea che ci collega da Verona al centro di Milano, chiedo scusa agli ascoltatori, riprendiamo il tema, dicevo che abbiamo dedicato un piccolo spazio prima di arrivare ai mercati anche al mondo dei produttori vitivinicoli dell'Abruzzo, al mondo che è stato colpito un anno fa, assieme a tantissime altre persone ci mancherebbe, da un terremoto e che sta lentamente tentando, come tutto il resto dell'Abruzzo colpito dal terremoto, di rialzare la testa. Abruzzo vuol dire Montepulciano d'Abruzzo, è un vino che ha dato anche delle grandi soddisfazioni ai produttori, 800.000 ettolitri l'anno, quasi la metà esportata all'estero. Un vino simbolo della regione, pensate che il valore dell'esportazione del Montepulciano d'Abruzzo, diamo qualche buona notizia sull'Abruzzo, è passato da 50 milioni di euro nel 2003 a quasi 80 milioni nel 2007, più di 80 milioni nel 2008. Di cui appunto il 50% è esportato negli Stati Uniti, Germania e poi Nord Europa, e il Wall Street Journal ha inserito due etichette abruzzesi tra i 10 vini internazionali sotto i 10 dollari, ossia con il miglior rapporto prezzo-qualità a livello mondiale, nei primi 10. E uno dei due è nostro ospite, grazie quindi a Leonardo Pizzolo, titolare dell'azienda Valle Reale di Popoli. Miglior Montepulciano d'Abruzzo secondo New York Times, complimenti innanzitutto e grazie. Grazie. E inserito appunto tra i 10 vini internazionali sotto i 10 dollari, tra l'altro lei, il primo argomento che vorrei affrontare, produce a 20 chilometri nemmeno, diciamo, da dove è stato l'epicentro del terremoto. Ora, sì, fermo restando che il terremoto è stata una tragedia umana nella ricostruzione, nella vita delle persone, che danno avete avuto voi come produttori di vino dal sisma dell'anno scorso? Ma i danni maggiori che abbiamo registrato, siamo molto pochi produttori nella zona interna della montagna, quella diciamo nella zona della provincia dell'Aquila, ma il danno maggiore credo che sia stato quello causato appunto dall'effetto mediatico del terremoto, cioè per parecchi giorni, per parecchi mesi alla televisione, alla radio erano avvisati tutti i turisti di non passare per l'Abruzzo, di cercare di non fermarsi, di cambiare strada, perché era appunto una zona pericolosa e poi molto trafficata per i soccorsi. Quindi in realtà abbiamo avuto una battuta di arresto e abbiamo avuto proprio un danno commerciale in quel periodo, nel senso che il turismo che veniva, sia il turismo per i parchi che il turismo che veniva per l'estate a passare le vacanze lì, ovviamente l'abbiamo perduto per l'anno. E quindi lo dico, fermo restando che non è il tema principale del terremoto, si è aggiunta la tragedia anche in qualche modo la beffa di avere un crollo dei turisti, un crollo del turismo enogastronomico, del turismo di carattere naturalistico, per cui minori vendite nella distribuzione, minori vendite nei ristoranti, insomma, minori vendite e basta, che chiaramente non rientrano poi nelle politiche anticrisi. La situazione sta migliorando? La situazione sì, sta migliorando, devo dire che verso l'ultima parte dell'anno è migliorata parecchio e quest'anno è partita abbastanza bene, il territorio è ripreso, c'è anche un sacco di ci sono tanti soccorsi, ci sono tante persone che stanno ricostruendo ancora adesso, no? Quindi abbiamo un consumatore diverso, diciamo che ci sono tante persone che lavorano all'Aquila e attorno all'Aquila, per cui ovviamente c'è una ripartita del mercato, ma c'è anche del turismo, c'era anche un turismo di curiosi, no? per un po' di tempo, sì, che non è il massimo, che non è il massimo della vita. Beh, invece quelli adesso... che si fermano gli incidenti, diciamo, in, esatto, autostrada. Vabbè, una cosa invece, ci fanno già notare gli ascoltatori a 349-238-6666 che lei non ha un accento abruzzese, perché lei ha una storia un po' particolare, produceva, si occupava di tutt'altro, di itticoltura, quindi allevamento di pesci. A Verona 10 anni fa ha scelto di andare a trasferirsi proprio nel centro del Parco Nazionale d'Abruzzo con i lupi che d'inverno attraversano le vigne, non sto scherzando, e che cosa ha ottenuto da questa regione? Beh, molto. Io appunto sono veronese, sono in Abruzzo da ormai 10 anni, proprio nella zona della montagna, la zona proprio davanti tra il Parco del Gran Sasso e il Parco della Maiella, e i lupi ci sono veramente, perché siamo di fronte al centro di valorizzazione del lupo e di ripopolamento del lupo per il parco. Mi ha dato molto, è una zona meravigliosa, una zona che secondo me meriterebbe di essere visitata, soprattutto per chi ama la natura, per chi ama diciamo tutto quello che riguarda una zona incontaminata, una zona ancora integra, e questa è una cosa meravigliosa. Allora facciamo un po' di promozione, anche se non è questo l'oggetto del programma all'Abruzzo, però che insomma ci sembra quantomeno doveroso. Un'ultima battuta, visto che gli ospiti in precedenza parlavano anche del ruolo della massa che non si riesce a fare nel mondo del vino, il fatto che ognuno poi giochi da solo, che i consorzi servono solo per il disciplinare, per mettere il bollino DOC, DOCG, ma non aiutino la promozione marketing, pubblicità sui mercati, il rapporto con la grande distribuzione. Voi questo lo sentite come Montepulciano d'Abruzzo, cioè le piccole dimensioni che vi rendono dei nani di fronte ai giganti a livello internazionale, poi della grande distribuzione, che devono comprare il vostro vino e stabiliscono loro i prezzi? Sì, noi lo sentiamo, l'Abruzzo diciamo che muove tanto vino, no? Muove tanto vino in giro per il mondo, però soprattutto nella logica di qualificare questo prodotto, cioè di comunicare effettivamente la qualità, è stato fatto qualche tentativo per fare sistema. Bisogna valorizzarlo, soprattutto mettendo in risalto anche i territori, le peculiarità del territorio, e soprattutto il fatto che è un prodotto di grandissima qualità anche sul piano internazionale, soprattutto in questo periodo un prodotto di grandissimo rapporto qualità-prezzo nei mercati internazionali. In bocca al lupo a tutti gli abruzzesi e a questo punto a tutti i produttori di vino dell'Abruzzo. Grazie a lei, veramente ne avete bisogno ancora più di altri. Grazie a Leonardo Pizzolo dell'azienda Valle Reale di Popoli, ripeto, il miglior Montepulciano d'Abruzzo secondo New York Times, e anche questo ci fa piacere. Adesso passiamo ai mercati, e ahimè oggi, seppur non in maniera drammatica, ma il tema da un po' più così di respiro e di serenità torna a essere negativo, perché 1,5% con tutte le banche in negativo e le tensioni sulla Grecia che si fanno sentire. 349-238-6666 per i vostri sms. I mercati. Dicevo, tensioni greche che si fanno sentire, meno 1,4% a Milano, Pirelli male, qui la Grecia non c'entra nulla, meno 3,4%, Medest meno 3%, sulle banche invece meno 2,7% Unicredito, meno 2,2% Intesa, meno 2,2% anche il Banco Popolare, poi c'è Saipem che perde il 2,20% come Tenaris e Autogrill, ST Microelectronics che perde il 2%, in pregiro meno 1,80% come Mediobanca e Prismian, l'1,70% lo perde la CIR e anche la Popolare di Milano, Telecom meno 1,60%, Generali 1,5% di calo come Unipol e il Monte dei Paschi, Ubibanca meno 1%. Chi ha guadagnato oggi? Solo Fondiaria SAI il 2% e Buzzi Unicem e Ansaldo lo 0,60%. Chiudo con i migliori e i peggiori. Allora, Uniland perde 5,30%, Bialetti 6%. Sul fronte di chi più guadagna, Ser Therapeutics più 5,4%, Poligrafici Editoriale più 5%, Poligrafici Printing più 9,6%, L'Espresso più 4,2%. Guido Maurino, Radio Colli, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Allora, quanto hanno pesato le parole della BCE e le tensioni soprattutto sulla borsa greca, che ha perso il 4% oggi? Ma hanno pesato molto, anche se appunto Trichet ha provato un po' a rassicurare i mercati nella conferenza stampa che è seguita alla decisione della BCE di mantenere i tassi invariati. In particolare appunto il numero uno della BCE ha spiegato che ritiene fuori questione che il governo greco non faccia fronte ai pagamenti, ha anche sottolineato che ritiene il piano di salvataggio concordato con Bruxelles in grado di funzionare, e tuttavia i timori restano. Oggi insomma i tassi di interesse sui bond greci hanno toccato il massimo storico, andando ben oltre il 7%, la borsa di Atene, come dicevi anche tu, ha perso quasi il 4%, insomma è stata un'altra giornata abbastanza difficile per la Grecia e per i listini europei di conseguenza. Questo per quello che riguarda borse e banche. Come dicevamo, Pirelli di nuovo invece soffre di un tema molto specifico, cioè i timori sui prezzi delle materie prime, prezzi della gomma, quindi Pirelli Tire. Sì, anche in questo caso è una costante che abbiamo visto un po' nelle ultime sedute. I prezzi delle materie prime, in particolare della gomma naturale, continuano a salire. Il timore un po' degli operatori è che l'aumento dei prezzi già decisi da Pirelli non riescano a controbilanciare del tutto gli aumenti delle materie prime. Va anche detto che comunque Pirelli nelle ultime sedute aveva tenuto bene, oggi insomma paga anche forse più degli altri titoli, proprio perché aveva tenuto nelle sedute precedenti. Allora, Mediaset, di nuovo contenzioso con Sky che pesa sul titolo, ma la cosa strana è che oggi Mediaset è andata parecchio male, ma bene tutto il settore editoriale, Guido. Sì, appunto, perché se Mediaset ha risentito del contenzioso con Sky, invece tutti gli altri editoriali hanno approfittato, se così possiamo dire, delle parole del direttore finanziario di RCS, Riccardo Stilli, che in un colloquio col Sole 24 Ore di oggi ha spiegato che nel primo trimestre la raccolta pubblicitaria è tornata positiva. Un segnale insomma positivo un po' per tutto il comparto, e infatti poi a guadagnare più di tutti è stato proprio il gruppo editoriale L'Espresso, che ha guadagnato il 4,24%, mentre RCS si è fermata al 3,01%. Dell'effetto Grecia, lo dico chi scrive sulle obbligazioni greche, sul credit default swaps, cioè su quanto è aumentato il rischio nell'assicurare, il costo per assicurare chi investe in Grecia, parleremo dopo il GR, quindi dopo le 18, sentiremo anche il commento del numero uno della Banca Centrale Europea, Jean-Claude Trichet, che ha detto è una follia parlare di un possibile default della Grecia. Comunque, grazie intanto a Radio Corriere sulle 24 ore, Guido Maurino. Il GR, poi la Grecia, il rapporto Istat sull'impoverimento delle famiglie italiane, e anche la protesta di questi 400 sindaci lombardi che lamentano un patto di stabilità che gli eleva le risorse. 349-238-6666 per i vostri SMS. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per questa seconda parte di Focus Economia, in cui chiudiamo la parentesi, l'approfondimento sul vino. Altri programmi, lo dico chi ci scrive, saranno in diretta nei prossimi giorni qui dal Vinitali, domani Essere Benessere, Deborah Rosciani con Salvadanaio, e poi la programmazione di Radio 24 continua. Parliamo degli altri temi di questa giornata economico-finanziaria, partendo anche da un'operazione che vale 8 miliardi in realtà, e ne vale molto di più come fatturato, e 15 miliardi quasi, e mi riferisco alla firma arrivata oggi tra British Airways e Iberia. Eh sì, perché la compagnia aerea britannica British Airways e il suo partner spagnolo Iberia hanno annunciato oggi la firma di un accordo di fusione vera e propria, non più semplicemente code sharing come si chiama in gergo, e quindi quella che è la quarta compagnia europea, Iberia, e l'ottava compagnia aerea al mondo, la British Airways, diventeranno una sola cosa. Pensate, 408 aerei come flotta, 200 gli aeroporti coperti, 1700 voli al giorno. 61 milioni e mezzo di passeggeri l'anno, 15 miliardi di euro di giro d'affari e 60.200 addetti. Dal Liberia alle proteste dei sindaci lombardi. Quindi voi ci chiedono se ci sono novità sulle ipotesi circolate su alcuni siti di alcuni quotidiani di una manovra correttiva da 4-5 miliardi. No, non ho visto altro su questo, perché c'era solo un flash di agenzia. Ma questa mattina a Milano c'è stata la manifestazione dei sindaci, ne hanno parlato anche i nostri GR, di 400 comuni lombardi contro i tagli ai trasferimenti verso i comuni e gli eccessivi vincoli imposti dal patto di stabilità interno, cioè il patto, diciamo, che il governo nazionale ha con i vari enti locali, regioni, province e comuni. E i sindaci di questi 400 comuni lombardi hanno simbolicamente restituito al prefetto la fascia tricolore. Ha seguito la manifestazione la nostra Anna Migliorati, che ha chiesto al sindaco leghista di Varese e presidente dell'ANCI Lombardia, quindi l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani Lombarda, Attilio Fontana, che cosa si sia ottenuto da questa mobilitazione. Abbiamo ottenuto di aprire questo tavolo, questa discussione, questo dialogo diretto con il governo, questa possibilità di rappresentare quelle che sono le problematiche dell'ANCI regionale, dei sindaci lombardi. Le possibilità di una revisione del patto di stabilità sembrano poche, Tremonti è poco disposto. Punterete più su quello o su un federalismo fiscale in tempi più rapidi? Ascolteremo quali sono i tempi del federalismo fiscale e proporremo magari qualche modifica al patto di stabilità che non vada ad incidere sui contenuti complessivi, ma che possa essere magari rimodulato. Cioè, il principio che tutti danno per scontato, che chi ha sperperato debba smettere di sperperare e chi ha sempre speso come una formichina possa spendere un po' di più, è un principio che tutti danno per scontato ma che ancora non trova applicazione. Faccio l'esempio del mio comune: io ho 12 milioni di opere pubbliche con progetti già esecutivi approvati e con opere già finanziate. Se rispetterò il patto di stabilità quest'anno, di questi 12 milioni ne potrò spendere 5. Quindi una protesta che, come già altre volte abbiamo ricordato, si concentra e arriva dai comuni virtuosi, quelli che non hanno sfondato i tetti ma che subiscono comunque i vincoli, come appena spiegato appunto il sindaco di Varese, i vincoli nonostante abbiano avuto una gestione virtuosa del bilancio. E Virginio Brivio, neo sindaco di Lecco, del PD, una delle sorprese assieme a Venezia, ha spiegato invece come l'allentamento dei vincoli del patto di stabilità avrebbe benefici a partire dalle imprese presenti sul territorio. Penso che questo sia molto importante anche per le imprese, questa manifestazione di oggi, perché le imprese soffrono anche loro dei ritardi nei pagamenti da parte degli enti locali. Le imprese potrebbero essere dei partner significativi per rilanciare un piano di opere pubbliche che peraltro è già presente in tante amministrazioni, che hanno soldi, che hanno piani triennali approvati, ma che sono disincentivati da queste norme del patto a darne attuazione. Sarebbe un modo, come dire, anche di aiutare l'economia a ripartire da questo punto di vista, perché è vero il piano casa, è vero alcune misure che riguardano i privati, ma un grande piano straordinario sulle opere pubbliche, sia per spendere, lo ribadisco, i soldi che già ci sono, sia per importanti lavori di manutenzione, eccetera, sarebbero fondamentali. Questo per quello che riguarda la protesta dei sindaci lombardi. Volete avere informazioni sulla manovra correttiva? Adesso è presente su tutti i siti dei principali quotidiani italiani l'ipotesi di 4-5 miliardi di manovra correttiva. Non vi è alcuna comunicazione ufficiale dal governo, né dal Ministero del Tesoro, né dal Ministro Tremonti. Per cui staremo a vedere, altro non possiamo aggiungere. Invece quello che è certo è che i redditi delle famiglie italiane nel 2009 sono scesi in media del 2,8%, segnando così il dato e la riduzione più significativa dagli anni 90. E anche qui attenzione, dagli anni 90 vuol dire da quando esiste la serie storica, quindi non sappiamo se non sia il peggiore dato sulle famiglie italiane sui redditi delle famiglie italiane dal 70, dall'80, dagli anni 60, e la propensione al risparmio delle famiglie del nostro paese è scesa anche qui ai minimi dagli anni 90, da quando esiste la serie storica dell'Istat, dal 1990, e questi dati insomma segnalano una difficoltà, come sempre, statistica, con molte differenze al suo interno, ma che abbiamo cercato di riassumere in questa scheda. Meno soldi, meno spese, meno risparmi. Che il 2009 sia stato un anno difficile anche per le famiglie non lo scopre l'Istat, ma i dati diffusi oggi forniscono le esatte dimensioni dell'impoverimento subito. Nel 2009 nelle tasche degli italiani è entrato il 2,8% in meno dell'anno prima. A tanto ammonta infatti la riduzione del reddito, che risulta la più forte degli ultimi 19 anni. Automatico l'effetto su potere d'acquisto e sulla spesa delle famiglie, che è diminuita dell'1,9%. Se le spese scendono meno dei redditi, significa che si intaccano i risparmi o che comunque nel salvadanaio entrano sempre meno monete. La propensione al risparmio, ossia la quota di guadagni che si riesce a mettere da parte, è scesa infatti dello 0,7% rispetto all'anno prima e oggi su 100 euro soltanto 14 riescono ad essere risparmiati. Non è andata meglio alle imprese, che a loro volta hanno registrato il calo dei profitti più forte dal 1990, con una flessione dell'1,8% rispetto al 2008. In discesa anche gli investimenti, diminuiti in un anno del 2,6%. Questi dati diffusi oggi dall'Istat, e a chi ci dice, insomma, parlate anche delle difficoltà delle famiglie, mi permetto di aggiungere, ne parliamo quasi ogni giorno, attenzione, e i dati sono di media, per cui è chiaro che alcuni scrivono il mio reddito è sceso del 10%, siamo d'accordissimo, l'Istat non può far altro che fotografare un dato complessivo, non può entrare nei dettagli. È chiaro che i dati sono causati dalla crisi economica, crisi che noi non abbiamo mai negato, lo dico a chi scrive, anzi siamo stati accusati nel passato di gufare un po' troppo, da lì anche il gufo che alcuni di voi ricorderanno, per cui critica che respingiamo al mittente. Adesso le informazioni per chi è in viaggio e poi parliamo della crisi greca, di cui si è molto discusso oggi nella riunione della Banca Centrale Europea, che ha lasciato i tassi europei invariati, ma insomma nel momento in cui si riuniva la Banca Centrale Europea andava a record la differenza tra quanto rende un'obbligazione greca e un'obbligazione tedesca, il cosiddetto spread con i bund tedeschi. A segnalare una difficoltà ulteriore della Grecia, è salita al 4,11% la differenza tra il rendimento di un titolo di Stato tedesco e uno greco, e anche i CDS, i credit default swap, hanno toccato un nuovo record a 430 punti, un livello altissimo. Quanto costa assicurare chi investe, quanto costa per chi investe assicurarsi sul rischio che la Grecia faccia default. 349-238-6666 per i vostri sms, ci risentiamo dopo il traffico. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, ultima parte di Focus Economia di questa giornata. 349-238-6666 per i vostri sms, molti messaggi su questa ipotesi di manovra correttiva. Allora, avete ragione nel dire che non era mai stata ventilata e che il ministro Tremonti diceva che con i 5 miliardi di ingresso nelle casse dello Stato dallo scudo fiscale vi sarebbe stato modo per non avere manovre correttive. Avete ragione nel dire che questa manovra chissà perché è arrivata dopo le elezioni regionali. Detto ciò, non vi è alcuna conferma sull'ammontare, sulla manovra in sé e sulla tempistica, per cui ci sono solo indiscrezioni di stampa che diamo, diffondiamo come sempre, aspettiamo di avere anche la versione ufficiale del Tesoro. Nel frattempo, dicevo, tassi invariati a livello europeo. Restano quindi a livello storicamente più basso da sempre i tassi europei all'1%, praticamente il differenziale con l'America resta di quasi l'1%, visto che l'America i tassi li ha a zero. Devo dire che Trichet, nel commentare questo andamento dei tassi, ha detto la ripresa è in corso, i tassi, quindi il costo di denaro resta adeguato, la crescita dell'Unione Europea resterà moderata nel 2010, ma Trichet oggi ha dovuto parlare anche e soprattutto di Grecia. Che proprio mentre si riuniva la Banca Centrale Europea schizzava al massimo il rendimento delle obbligazioni greche, che non è una buona notizia, perché più sale il rendimento di un'obbligazione, lo dico a chi scrive, più vuol dire che chi ha il debito greco rischia di più, e la Grecia deve offrire un maggior rendimento per avere sottoscritto il suo debito. Schizzavano ai massimi storici anche i CDS, quindi quello come noi le abbiamo chiamate, insomma, le polizze assicurative per chi investe in debito greco. Tant'è che poi nella metà giornata è intervenuto anche il governo tedesco a ribadire la sua posizione, ha detto insomma, nonostante stia peggiorando il rendimento la situazione dell'obbligazione dei CDS, il pacchetto di aiuti varato per Atene deve essere usato come ultima istanza, come estrema ratio dal governo di Atene. E allora sentiamo anche Jean-Claude Trichet commentare l'andamento della crisi greca, dicendo che insomma il tema del default, del fallimento, è un tema che non si pone nemmeno. The position of the ECB has always been La posizione della Banca Centrale Europea è sempre stata quella di invitare i governi della zona euro a far fronte alle proprie responsabilità. Sono membri dell'Eurogruppo, devono applicare il programma di stabilità e crescita e, come ho detto più volte, condividono lo stesso destino. Il nostro messaggio ai governi è sempre stato quello di far fronte alle proprie responsabilità. Non ho mai detto, né lo hanno fatto i miei colleghi, che l'esperienza del Fondo Monetario non fosse la benvenuta. Abbiamo collaborato con il Fondo e la questione non era rifiutare il Fondo Monetario Internazionale, ma avere governi all'altezza delle proprie responsabilità. Ciò che conta, ciò che è importante, sono le misure prese dal governo e dal Parlamento greco. Voglio aggiungere che al momento, tenuto conto di tutte le informazioni disponibili, la questione di un'insolvenza sul debito della Grecia non si pone nemmeno. A default is not an issue for Greece. Con questo Trichet ha voluto anche allontanare le polemiche, visto che la Banca Centrale Europea da sempre si era detta scettica sull'intervento del Fondo Monetario Internazionale. Comunque, Beda Romano, il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte, è in collegamento con noi. Buonasera, Beda. Buonasera. Restiamo sulla Grecia, mi sembra che sul resto i temi siano molto, molto pochi. Non si capisce, non lo capiscono neanche gli ascoltatori. Ha cambiato idea la Banca Centrale Europea sul ruolo del Fondo Monetario Internazionale? Prima domanda. Seconda domanda, sta minimizzando per evitare un effetto panico o è veramente convinta che la crisi greca sarà solo un problema di rendimenti molto alti delle obbligazioni, CDS, ma poco altro? Ma ha cambiato, sì, per certi versi ha cambiato posizione sul Fondo Monetario Internazionale. La banca era contraria all'intervento del Fondo Monetario Internazionale perché era convinta che l'intervento del Fondo avrebbe potuto avere due effetti negativi. Avrebbe potuto, in un certo senso, annacquare la forza del patto di stabilità e dall'altro avrebbe potuto mettere a repentaglio l'indipendenza della politica monetaria della BCE. Perché naturalmente l'intervento del Fondo Monetario in un paese membro della zona euro avrebbe potuto modificare gli equilibri di politica economica e di politica monetaria nell'Unione. Allora, questo aspetto rimane evidentemente agli occhi del presidente Trichet, ma l'operazione emersa poi alla fine a Bruxelles durante il vertice alla fine di marzo è un'operazione che ho l'impressione vada ancora negoziata fino in fondo. Sappiamo che il piano di aiuto è un piano doppio, c'è l'intervento del fondo ma c'è soprattutto l'intervento dei paesi membri. il tentativo della banca, della BCE in questo momento, è quello di fare buon viso a cattiva sorte e comunque ricordare qual è l'obiettivo principale della banca. L'obiettivo principale della banca non è tanto quello di impedire al fondo di intervenire, ma impedire che l'intervento del fondo monetario possa mettere a repentaglio da un lato il patto di stabilità e dall'altro l'indipendenza dell'istituto monetario. Beda Romano, un minuto per una domanda e una risposta, insomma, che necessiterebbero forse un programma, ma veramente, secondo te, da quello che tu hai colto anche così off the record, la crisi greca viene ritenuta sotto controllo? Perché insomma non vorremmo, oggi la borsa d'Atene ha perso il 4%, cioè di nuovo dopo quell'accordo europeo, Francia-Germania, bilaterale, poi il Fondo Monetario, di nuovo c'è chi investe e scommette e specula su un peggioramento della situazione greca. Non credo che si possa dire che la situazione greca sia sotto controllo e non credo che la Banca Centrale Europea, messa alle strette, utilizzerebbe questa definizione e questa espressione. La banca in questo momento afferma che il fallimento non è d'attualità e lo dice citando due cose. Prima di tutto dice che il governo di Atene ha messo sul tavolo una serie di misure per risanare i conti pubblici del paese e queste sono misure concrete, bene o male dovrebbero a un certo punto avere un impatto. E poi la banca ricorda che c'è una dichiarazione formale da parte dei governi membri della zona euro di salvare la Grecia e evitare il fallimento. Sulla base di questi due elementi la BCE ha ragione nel dire che il fallimento del paese non è d'attualità. Grazie, grazie Beda Romano in collegamento con noi da Francoforte. Ed è veramente tutto per questa puntata di Focus Economia in diretta dal Vinitaly. Domani saremo in diretta da Parma, dove si apre da due giorni di lavori organizzata dal Centro Studio di Confindustria. Vi sarà anche il ministro Tremonti, oltre che numerosi altri ministri. Arriverà anche il presidente della Banca Centrale Europea Jean-Claude Trichet, la presidente di Confindustria Marcegaglia, e chiuderà il presidente del Consiglio, che chiuderà la parte degli interventi dei relatori, il presidente del Consiglio Berlusconi. Lo dico perché molti scrivono: adesso vediamo se avrete il coraggio di dire che i conti non tengono. L'abbiamo sempre detto: se verrà confermata la manovra aggiuntiva sarà una sorpresa. Significherà che alcune previsioni anche del Ministero non erano corrette, che lo scudo fiscale non è servito agli scopi per cui era indirizzato e che obiettivamente i conti pubblici tengono peggio. Se verrà confermata la manovra aggiuntiva, io dico, ne parliamo domani, avremo ampio modo e tempo per discuterne. Per ora da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata, ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.